10:56 di questo martedì 18 febbraio, cambio di microfoni all'interno della mattinata informativa di Blackout. Come ogni martedì torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione a cura del collettivo universitario autonomo. Quest'oggi a farvi compagnia Francesca e Eddie, ciao a tutti e tutte. Che vi salutano, vi ricordano anche subito i contatti per scriverci in corso di trasmissione: 011 249 5669 il telefono fisso e il cellulare 346 6673 263. E proprio poco fa ci hanno chiamato qua in studio per segnalarci che questa mattina in via Leini, in zona Barriera di Milano, è stato eseguito uno sfratto a sorpresa. Purtroppo all'inquilino non è stato permesso di telefonare se non a sfratto già eseguito, quindi non c'è stato modo di diffondere la notizia per tempo. Pare però che le camionette di polizia che sono andate sul posto per eseguire lo sfratto siano ancora in giro, quindi per chi si trovasse nei paraggi o avesse notizie di eventuali altri sfratti a sorpresa che potrebbero avvenire questa mattina, speriamo ovviamente di no, come al solito i microfoni di Radio Blackout sono aperti, quindi non esitate a segnalarcelo. Now it's time. Bene, ci accingiamo a presentare la puntata di quest'oggi, 11.02. Cominceremo con un intervento dal convegno di Bologna tenutosi questo weekend, dal titolo Risorse pubbliche, chi decide? Un altro, diciamo, dei terreni di battaglia che ci accingiamo a, su cui ci accingiamo a metterci in gioco durante la primavera, quello dello spreco delle risorse. E ci sposteremo poi invece qua a Torino per andare a presentare la settimana di iniziative che si aprirà questo giovedì alla biblioteca autogestita del terzo piano, una settimana ricca di iniziative. Ci faremo insomma spiegare un po' qual è il senso di questa settimana e poi anche presentare gli appuntamenti da uno studente che appunto frequenta e partecipa attivamente a questa esperienza. Poi saremo in collegamento con Carlo Formenti, autore del libro Utopie letali, che verrà presentato stasera al Centro Sociale a Scatasuna. E chiuderemo poi invece con una diretta da Cagliari, dove gli studenti del collettivo universitario autonomo stanno portando avanti una mobilitazione rispetto alla mensa universitaria che è chiusa da tempo. Appunto, no, alcune iniziative in programma ce le faremo raccontare da uno studente appunto di Cagliari. Questo è più o meno quanto, ovviamente. Tutto accompagnato da un po' di musica, infatti adesso vi lasciamo a un breve stacco musicale, poi iniziamo con i primi approfondimenti. Oh, 10:10, iniziamo allora con i primi approfondimenti per la puntata di quest'oggi. Prima di iniziare con le dirette, volevamo appunto farvi ascoltare uno stralcio dal convegno che si è tenuto questo sabato a Bologna, che aveva appunto come argomento quello della questione delle risorse pubbliche, una questione che viene posta ovviamente dalla parte dei movimenti, ovvero del riappropriarsi del diritto di decidere sulla destinazione delle risorse pubbliche, a partire anche da quello slogan con cui si è sceso in piazza il 19 ottobre, nelle date successive del una sola grande opera, casa e reddito per tutti. Una giornata a cui appunto hanno partecipato tante esperienze di lotta, a partire dal movimento Notav, dal movimento Nomuos, ai diritti ai movimenti per il diritto all'abitare. L'intervento che vogliamo farvi sentire, che insomma riguarda un po' più da vicino anche gli argomenti che trattiamo di solito all'interno di Parole Ribelli, è quello a cura della rete universitaria Universiti, che appunto ha cercato di riportare il focus della discussione sul contesto appunto universitario. L'audio insomma è un po' lungo, cercheremo magari di intervallarlo un po' durante, appunto, mentre ve lo mandiamo. Comunque insomma ci sembrava interessante condividerlo anche qua. Io come dicevo ora con Fulvio, proverò a riportare in interazione con il tema del convegno di oggi alcuni spunti di discussione elaborati collettivamente in quest'ambito di incontro e condivisione di universiti, per l'appunto. Mettere in relazione dunque le tematiche su il mondo della formazione, i conflitti che in esso si sviluppano, con il tema delle risorse e della decisione sull'utilizzo di queste risorse, significa per noi direttamente porre la questione del contropotere, in qualche maniera, delle soggettività in conflitto, delle soggettività e delle rigidità esistenti a oggi, e come svilupparle in senso conflittuale, di rottura in qualche maniera dell'esistente e di quello che oggi è il mondo della formazione, per come è andato violentemente ristrutturandosi in questi anni post riforma. Inizialmente diciamo proverò a enucleare alcune linee di evoluzione strutturale del carattere del finanziamento pubblico nell'università post-riforma, partendo da questo assunto diciamo lampante, palese del fatto che ovviamente assumere il processo di riforma significa assumere una dimensione strutturale del carattere del finanziamento pubblico all'università, per come si dava negli anni precedenti al 2008, fondamentalmente una grande operazione di ristrutturazione neoliberale che ha come obiettivo principe quello di diversificare una forza lavoro in formazione dentro l'università, dentro i contesti della formazione. Ovviamente quanto accennerò non ha nessuna pretesa di carattere oggettivistico. Per noi il punto fondamentale è sempre quello del poter individuare delle linee di frattura rispetto ai panorami che ci si presentano davanti, rispetto ai territori sociali che vanno a costruirsi nella dialettica continua dell'iniziativa capitalistica e dell'opposizione e delle resistenze a questa iniziativa qui. Infatti, come dire, a meno di non essere sedotti da una prospettiva governista sul mondo della formazione e dell'università, non possiamo a oggi porre un problema sull'utilizzo delle risorse dell'università che non parta da un'ipotesi di conflitto e di rottura. E qui mi riallaccio un po' anche a quanto i compagni in precedenza dicevano sulle verità, le ipotesi di vittoria, di poter contare soprattutto in questa fase ancora qualcosa in un terreno che non ci appartiene, che è quello del governo, della governamentalità, delle strutture e dell'istituzionalità a oggi per come si configura. Anzi, diciamo che proprio l'inimicizia rispetto a questo piano qui inizia a strutturare dei comportamenti e delle rigidità che siamo interessati a conoscere, indagare, inchiestare e sviluppare, soprattutto in direzione politica e collettiva. Dicevo, una diversificazione della porta lavoro e formazione, cosa significa questo? Significa innanzitutto che assistiamo a un, come dire, declassamento gerarchico della scala verticale dei ruoli sociali che sono associati alle competenze che vengono fornite, erogate anche come servizio dentro questa università, e allo stesso tempo però a un allargamento in senso orizzontale delle competenze necessarie per la riproduzione sociale dei soggetti in formazione. Ed è proprio questo qui un aspetto che dovremmo tenere di conto. La parola del potere è quella che ci dice che viene messa in discussione la riproduzione sociale delle soggettività in formazione, e non solo, anche come ambito trasversale potremmo affermare. È proprio iniziare a esprimere una rigidità, un'opposizione rispetto a questo, iniziare a ribaltare il piano, è un dato, pensiamo, fondamentale che ci unisce anche e pone in continuità una idea di conflitto rispetto a quella che si è data anche nel percorso della sollevazione dopo il 19 ottobre e oltre. Che realtà, che territori attraversiamo dentro l'università? Sicuramente abbiamo a che fare con una formazione povera, dunque una formazione che articola una gamma ristretta di possibilità di sviluppo dei margini di autonomia nel processo formativo, ed è proprio questo un aspetto, una contraddizione che noi dobbiamo agire convintamente, provare a ribaltarla, nel senso proprio del tentare di invece immaginare un modello antagonista di formazione a partire dal riscatto e delle capacità che vengono distrutte dentro invece questo sistema. È proprio quel punto di vista soggettivo a cui accennavo prima, in opposizione invece a una lettura oggettivistica delle dinamiche di trasformazione capitalistica. Vado un minimo a tratteggiare alcuni elementi dell'iniziativa della controparte, se così possiamo dire. Sicuramente partiamo da un dato di base, di fondo, che è quello della totale e drastico flessione del fondo di finanziamento ordinario, dunque materialmente i soldi pubblici che vengono messi dall'università. A questo riguardo, di recente, anche se il quadro istituzionale sta rapidamente mutando, i fatti di questi giorni ce lo testimoniano, vediamo che sono comunque delle invarianze. Ad esempio, nell'ultimo consiglio dei ministri del governo che ormai fu, la ministra Carrozza ha proposto un piano settennale sulla ricerca nazionale, un piano che, andiamo a rilevare questo dato significativo, viene tutto costruito su una contabilità che fa riferimento a dei fondi di finanziamento europei. Dunque, fondamentalmente, senza oneri per la spesa pubblica statale, ma che fa riferimento a bandi e fondi di finanziamento erogati dall'Unione Europea. Quali caratteri hanno questi programmi di ricerca? Innanzitutto lo sguardo è sempre rivolto a dei quadranti alti della valorizzazione capitalistica. Dunque si perde il senso della ricerca di base, potremmo dire ancora una volta dal punto di vista soggettivo, si perde quasi la possibilità, ed è questo un dato con il quale ci confrontiamo quotidianamente, la possibilità della ricerca di base come avanzamento negli studi, nella formazione su una base sociale allargata, su dei livelli bassi della composizione sociale. Questo piano nazionale di ricerca con fondi europei viene articolato in 7 anni ed è incardinato fondamentalmente su 3 principi. L'attrazione di capitale umano, dunque l'essere attrattivi, dunque il rispettare determinati canoni, criteri e principi dentro una logica di competitività, l'identificazione da parte di organi valutativi del Ministero di determinati progetti ritenuti strategici, sempre comunque grossi progetti su quali l'ultima parola è sempre quella di un livello politico dal quale fondamentalmente restiamo esclusi, non c'è decisionalità possibile che viene concessa verso il basso, e ovviamente poi la promozione dentro questi progetti di ricerca del cosiddetto sistema delle imprese e dunque degli interessi del piccolo, medio, grande capitale privato, che si relazionerebbe in questa maniera qui con il pubblico, dove sempre più va a approfondirsi quell'ipotesi che vede il pubblico ristrutturarsi come agenzia del privato, anche nella copertura materiale dei costi e dei rischi. Dunque dicevamo, una ricerca altamente specializzata, modificazione, ovviamente quasi, della ricerca di base, lo vediamo ad esempio nella soppressione di bandi per le borse di studio, per le borse di dottorato o per i posti per il ricercatore in università. Analogamente, per quanto riguarda invece il ramo della ricerca e la didattica, si va a ristrutturarsi tutto anche questo su delle linee di indirizzo che riguardano fondamentalmente la promozione dei grandi nomi della docenza, i grandi professori che ancora una volta diventano parte in causa, responsabili in quanto anche merci di scambio dentro il mondo della competitività degli atenei, in guerra continua tra di loro nel cercare di accaparrarsi quelle poche risorse che ancora vengono erogate dal soggetto pubblico. Sempre di più infatti va a allargarsi quella parte premiale del fondo di finanziamento ordinario che ovviamente viene contesa a colpi di competitività, a colpi di rating dai vari atenei. su livelli bassi, invece su fondamentalmente noi che ci iscriviamo all'università, sì, cioè tra l'altro anche questo è un dato interessante, il calo delle iscrizioni all'università c'è, ma non è una flessione così drastica da non segnalarci comunque il fatto che c'è sempre in questo paese un'esigenza di formazione, anche come ambito di arricchimento di capacità. E qui ritorno su quell'ipotesi iniziale alla quale accennavo prima, del continuare a immaginare con il conflitto, con la lotta, con le resistenze, la possibilità di sviluppare questa contraddizione qui tra una volontà soggettiva, un desiderio soggettivo di arricchimento di capacità e invece questa macchina che fondamentalmente lavora contro di noi, lavora alla nostra distruzione di capacità, al loro mortificarsi e esaurirsi dentro il sistema della formazione. E dunque questa didattica qui, le aule di lezione sempre più diventano degli spazi per una didattica, in un senso una formazione di taglio generalista. La fase attuativa, infatti, i decreti attuativi della riforma Gelmini vanno a comprimere l'offerta formativa, la qualità dell'offerta formativa nel senso dell'accorpamento dei corsi di studio, dell'inserimento praticamente ormai in un fatto generalizzato del numero chiuso in tutte le facoltà e della soppressione di interi insegnamenti. Un altro elemento particolarmente interessante è che queste dinamiche qui sulla spesa e l'investimento pubblico nell'università corrispondono ovviamente, e sembra questo proprio un carattere invariante, dei cicli del debito e dell'indebitamento nell'università. Infatti, cosa significa parlare di tagli alla spesa pubblica? Significa banalmente il fatto che l'università e lo Stato ripaga il debito verso il grande capitale, fondamentalmente le questioni del pareggio di bilancio o dei patti di stabilità ci segnalano questo, è quando in settori del welfare, del pubblico, vediamo i tagli, assistiamo a questo genere di dinamica qui. In secondo luogo, il pubblico riarticola le proprie tecniche di investimento nel cosiddetto project financing, trovandosi a ripagare il debito a capitali privati per il riscatto di beni che vengono costruiti, che vengono edificati, ad esempio a molti poli universitari o tante case dello studente che vengono costruiti in questa maniera, dove il pubblico appunto ha quel ruolo di ammortizzare i rischi per il capitale privato, fondamentalmente poi trovandosi a ripagare nei confronti di questo stesso capitale un debito che poi va a ricadere nei termini di tagli ai servizi e riduzione all'accesso alle risorse per noi. Allora, insomma, questo era un pezzo del video, interrompiamo qua appunto per non dilungarci troppo, insomma ci rendiamo conto che per il format radiofonico, insomma, mandarlo per intero poteva risultare poi anche difficile da seguire, rimandiamo comunque al canale YouTube di InfoOut Video per insomma tutti i video del convegno. Adesso rispondiamo a una richiesta musicale che ci è arrivata nel frattempo qua in radio, questo è il pezzo che ci ha richiesto Diego, buon ascolto. Don't know much of biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. E nel frattempo ci è arrivato un SMS al 346-667-3263 che ci segnala che in Corso Svizzera, all'altezza di Corso Appio Claudio, quindi di fronte al Martinetto, ci sono vigili, quindi per chi fosse nei paraggi, come sempre, cisti. 11.34, siete sempre in ascolto di Parole Ribelli, in attesa di preparare la prima diretta, facciamo un po' un cambio di sonorità. Buon ascolto. This is coming straight from my heart. I'm never having that provincial love. Why you feeling it? I'm feeling it. I'm feeling it. You feeling it? I'm feeling it. I do it for the love of it with her. I'm never having that provincial love. Why you feeling it? I'm feeling it. I'm feeling it. You feeling it? I'm feeling it. Io suonava no, no, no, e boom, basta, cresciai, vestivo magazine, ascoltavo figli dentro al bosco con la cassetta, facevo colletta, vedevo moglietti dicendo yo, in collinetta, perfetta, vestivo in cristalle, leggevo elle, adottavo fratelli e sorelle, ascoltavo fucking Academy e LL, alle jam il mic era mio, stavo lì come Spike e tipo in Nike, dicevano, dico, prista, sista, in quanto funk, assista, ma in quanto flow, the stile che fantasista, ci sta questa che c'ha tutto in te. E sulle spalle solo il peso di un ghetto blasta. Basta questi assist mai visti, testi vuoti e tristi, le facce toste e le piacine. I vuoi scompati in testa, non faccio in testa. Basta questi scatti che li copra la festa. I do it for the love of it with love. I never have enough of it, show us. Why you feeling it? I'm feeling it. I'm feeling it, you feeling it? I'm feeling it. I do it for the love of it with love. I never have enough of it, show. Why you feeling it? I'm feeling it. I'm feeling it. You feeling it? I'm feeling it. Yeah, I'm gonna see you. The kicks, the vinyl, the mixtape, the double S, the bassi, the city, the nasty jeans, the misty, the Vienna's, the Stassi, the Adidas, the Adidas, the dealing to a spot, cats, la East, la West, come lo dite, lo yak, la bada, the tank, the jazz, quanto il funk, the flow, la porta, the ski, the fat, the footwork, the cooler, the primo, the hit rock, the jazzy jazz, il bada, the best, the lane, best, the cat, the top, the bottom, the ski, the premium mix, the della stento, the soul, the beta, the shoot, the Snoopy, I want you to blaze like I'm joining the yeah. This is coming straight from my heart. I do it for the love of it, I never have enough of it, show love. Why you feeling it? I'm feeling it. I'm feeling it. You feeling it? I'm feeling it. I do it for the love of it, with I never have enough of it, show love. Why you feeling it? I'm feeling it. I'm feeling it. You feeling it? I'm feeling it. Hey, I'm not in the gas, but I'm in vivo. So good at truth, scrivilo. Se fa muovere distinto, ballalo. Se fermo il treno, boom, ballalo. Se vuoi che vada avanti, spingilo. Ti ha insegnato qualche cosa, ascoltalo. Suonalo, sentilo, sentilo, amalo. Stai schiacciando. Hey, yo, vai te, I am hip hop. Luigi Remix. Just like back in the days, y'all. She got to all my fly girls, b-boys, hip hoppers, crank shakers. You know how it goes. You know that we got the flow. Hey, y'all. Support your local artists, independent labels. You can't get the boss just around the corner. Your friends, show it up. .250, sfumiamo il pezzo per andare a fare la prima diretta per la puntata di quest'oggi. Come abbiamo annunciato in apertura, andiamo a presentare la settimana di iniziative che ci sarà alla biblioteca autogestita del terzo piano. Per farlo abbiamo raggiunto a questi microfoni Matteo, studente dell'Università di Torino, che insomma partecipa attivamente a questa esperienza, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao a tutti. Ecco, con te appunto volevamo un attimo presentare questa settimana, a partire dal titolo con cui è stata lanciata, che abbiamo un altro piano, che appunto implica un po' questo tentativo di provare a sperimentare forme diverse di stare all'università. Quindi ti darei la parola su questo, magari se vuoi anche di contestualizzare brevemente quella che è l'esperienza del terzo piano, anche se insomma ne abbiamo già parlato anche altre volte a questi microfoni. Allora, esatto. Abbiamo un altro piano, nasce come titolo anche in quanto l'anno scorso c'era un'altra occupazione a un terzo piano e dopo che è stato chiuso è stato occupato un altro piano al due piani sottoterra, in realtà un'ex biblioteca non utilizzata, e quindi questo spazio è voluto nascere dall'esigenza di tanti studenti di ritrovare uno spazio diciamo liberato e comunque per far fronte anche a un problema universitario che è dato proprio da mancanza di spazi sia di studio, quindi dall'esigenza di una biblioteca, ma anche dall'esigenza di in realtà spazi da poter costruire insieme, da poter in modo tale che questo spazio diventi un luogo di aggregazione, di socialità, ma anche di discussione e possibilità di sperimentare forme alternative di cultura, diciamo. Quindi per le prossime due settimane, quindi iniziando dal lunedì 24, metteremo in campo una serie di azioni, da una parte più diciamo politiche tra virgolette, con l'intento di andare a colpire il caro libri, il costo, comunque le spese molto alte che possono avere gli studenti in una vita universitaria, e faremo anche varie serate, attività varie, ludiche, diciamo. Certo, sì. So che tra l'altro, appunto, a proposito di questa questione del caro libri, avete anche lanciato una campagna per scoprire un po' quale fosse il libro più costoso dell'Universitario Torino, per andare anche un po' a denunciare appunto tutta quella rete che sta dietro al caro libri, per cui il professore vuole per forza il libro originale, altrimenti all'esame fa storia, insomma, cose che chi frequenta un po' l'università sa bene. Non è un caso così raro di professori che vogliono il libro originale il giorno dell'esame, si arriva a parlare di libri che costano 40 euro, quindi ci sembra anche assurdo il dover, e questo capita abbastanza spesso, il dover decidere magari un esame non in base a un gusto personale, a un proprio interesse, ma in base a quanto mi viene a costare spendere di fotocopie o di libri originali, visto che il prof non li vuole. Quindi il 20, aspetta che ti dico subito il giorno, che mi sono perso un secondo, lunedì 3 faremo delle azioni contro il caro libri con la presentazione del Datastorm, che tecnicamente non te lo so spiegare benissimo, comunque una nuvola web di un wifi in cui si avrà la possibilità di scaricare gratuitamente da un server dei libri di testo, anche dei libri dei classici, diciamo dei romanzi, e dall'altra parte poi porteremo le fotocopie nel lato per fotocopiare a un prezzo inferiore rispetto alle fotocopisterie e dare la possibilità agli studenti di fotocopiare i propri libri. Già questo lunedì in realtà, quindi lunedì 24, ci sarà un pranzo sociale in atrio, credo da mezzogiorno e mezzo in poi, per dare la possibilità anche agli studenti, con il fatto che ricomincerà l'università, di poter mangiare a un costo inferiore rispetto a quello a cui normalmente sono abituati. Certo, senti, so che all'interno appunto di queste giornate ci saranno anche due dibattiti dedicati più a insomma momenti di discussione, di approfondimento. Uno in realtà sarà già questo giovedì, poi ce ne sarà un altro la settimana prossima. Se hai voglia di dirci due parole anche su questo, così rilanciamo esatto, anche allora, l'appuntamento. Questo giovedì, siete tutti invitati, diciamo, alle 6, appunto almeno 2, per un incontro sentito a bianco e nero sulla Palestina, se non erro, e poi vabbè, avremo tutti i martedì della prossima settimana Cineforum e avremo il giovedì 6 la proiezione del film Nomus, più una pericena, un'attività organizzata dai nostri compagni siciliani. E vabbè, avremo le serate musicali, una serata musicale il giovedì 27, partendo dalle 7 di sera con due sale musicali con vari artisti, 88 folli, dal Tribe, concerti country e DJ set in una delle due stanze. Va bene Matteo, noi ti ringraziamo, visto che gli appuntamenti sono tanti, rimandiamo alla pagina Facebook ai contatti del Terzo Piano, che trovate col nome di Terzo Piano Biblioteca Autogestita, dove appunto ci sono tutti gli eventi Facebook e i riferimenti del caso per chi volesse partecipare. Noi ti ringraziamo e diamo quindi appuntamento a partire da questo giovedì a chiunque fosse interessato. Grazie mille, ciao. Ciao, un saluto anche a te, ciao ciao. Allora proseguiamo con un po' di musica, poi prepariamo la prossima diretta. So you wanna know something about me? Me, I don't have kids and I don't have money and I don't have a man who can call me honey. I have some dreams but I don't have a job. I'm as broke as a joke so I don't go to clubs. I don't have a future and I don't have a past. I wonder how long this present is gonna last. I have no clue, no situation. And yes, it might be true that I truly need a relation. But it's all I got is me. Yes, you can. Like I'm the president. My DJ, he's resident. Yeah, when I'm high enough, I do the crazy dance. You're wondering why you don't know me. It's because I'm lazy, man. Fresh like sweat when I drop the navy pen. Yes, my album will come out, but don't ask me when. Let me go back in the den. I'll hit you back in 10, babe. The mental state I'm in when in my element is evident. I innovate, elevate to soul elements. Wait, self-confident, but shy at the end. Still, easy going, but hard to understand. Still, we can chill, conversate, play. But at the end of the day, don't come tell me who I am. It's all I got is me. An ancient letter in my life is Kabbalah. It's all about the euros and dollars, but I'm a trendsetter, not a go-getter. Got it, gotta go now, but holla at my spirit to matter. I've never been a chit-chatter, but I love to talk. Like I've never been a jogger, but I love to walk. Why the chalk? No, I wasn't born in New York to eat and see. Me, I use a knife and a fork. Make you jump to the ceiling like spider pork. From the down south, but I leave up north. I'm not a Leah, but I keep going back and forth. Vitae is the name, but to keep it short, call me V. You get what you see, now let me be. I flow freely, you feel me? It's all I got is me. I gotta let me be. I gotta set me free. I need you. To make money, you know, I have bills, I have an apartment that I have to pay Every month I have to pay my bills, and if I don't, then my credit gets fucked up, and I can't have fucked up credit because I don't fuck. They own you. Yeah. Yeah. Bang bang, with a dollar chain chain. We adopt this, I still new. Still new. Niggas on my nothing ain't new. Ain't new. This new, making moves. Making moves. Bang bang. Who holds that piggy bank? Who collects? Who holds that piggy bank? Who's in debt? Who holds that piggy bank? Who gives it out? Who calls the shots? Who cleans and pots? You wonder, I betcha, I know. We catch you, got you in a choke. Home CEO bankers and politician gangsters. Elbow to the throat and there's no passing go. No go, no go. Cause they own you and they own this land. And they own the sand and the sea too. These some loan shark monsters with a big crew. Big crew, credit card dealer. A pusher, a dealer. You don't know that name, but they own this game. And they hold the banks. They got it on that lot cause they own the tanks. They own the TV, they talking that. Making us believe that we need the man. It's some sleazy. Corporate sponsored marketing adventure, manipulating we, the co-op, the protector, or the bank investors. Why can't we see? They some cannibal lender, cannibal shit. Diamond ain't got nothing, all the flesh they get. Killing serial bankers, who benefits? We follow the money trail and we find some answer. Or it's another trail of tears forever. Where's the money come from? Where does it go? Makes me skeptical of the things I touch and know. Like how they get the money, yo, where they get the dough. Who worked for you to the bone, had to die. Gotta get the banker's bill stack so high you can believe that there's a connection, a correlation. So here's my interception for conversation. We need some reflection on who holds that piggy bank, who collects, who holds that piggy bank, who's in debt, who holds that piggy bank, who does it out, who calls the shots, who cleans and pots. You wonder, I betcha, I know we held your ransom for your work check, clear check, bounce check, how much is your amount check, check, check, check, check into cash, Bank of Italia, City. Bank of America, Morgan Chase. Bankers telling me to tighten my belt. It's like an alcoholic telling me to get some help. But I wanna move on to a world without hunger and death from hunger and fighting one another for that land and power. American dollar, I say you're a yen pound. I've been around all the stories I've found and seen. I said you know what I mean. When this push comes to love, we can shovel a lot. Looking out for each other, sometimes it's all we got. Cause they ain't looking out for we, they looking out for them. Honeys are never met. So why do we pretend they sold us out? It's in their interest, the bankable income, giving us no rest, keeping us all pressed, bent over the rent, pressure. While I'm waiting on that automated telephone line, it got me feeling quite the lesser. They some Carlo Heffa, they can do what they want, and keep us wondering why our luck don't amount to dust. No matter how hard we try, never trust in Mr. Bank, it's true. It's true. And I'm only dealing with them cause I had to. I said if I had an option, I'd divorce them. But this economic freedom, I'm not supposed to. And it's a double standard from way back. I'm pressing on my last nerve, sciatic. Okay, listen, Mr. Bank, if I can say no thanks, you can keep your statements and fuck your payments. They make a multi-million-dollar profit, zero taxes paid. Multi-million-dollar refunds and the rest of us are slaves. Wall Street bailouts making more than before. Bailski bailouts, some banks galore. So let's smash the banks of marble, kick the bosses out the door. Share the vaults of silver that we all have worked for. Bang, bang, silver dollar chain, chain. Without this, I still move. Still move, making some money, nothing ain't new, this new, making moves, bang, bang, piggy, piggy, piggy, piggy, bang, bang, bang, bang, piggy, piggy, piggy, piggy, bang, bang. Thank you. feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As the senior thieves, like them, I can't be. So I made a decision, we can make a choice. Antagonist of pizza, antagonist of pizza life. What a bomber and the bankers and the generals and the IMF, CIA and CNN and BBC fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, anger to action. Siamo in attesa di stabilire il collegamento con Carlo Formenti per fare una prima e breve presentazione del suo ultimo libro, Utopie Letali, che verrà poi presentato questa sera al Centro Sociale a Scatasuna. Purtroppo in questo momento non può rispondere, quindi vi lasciamo ancora un attimo di musica e tra pochissimo torniamo in diretta. Intanto ricordiamo un po' di appuntamenti, tra cui quello del 22 febbraio, che ovviamente la giornata sarà caratterizzata dalla manifestazione nazionale NOTAV, ma poi a sera ci sarà un benefit del collettivo universitario autonomo al Centro Sociale a Scatasuna, e la serata, diciamo, si intitola Tarantelle pe campà, cena calabra con tarantelle e pizzica. Assalti frontali, quello che vede è vero, meglio tradotto il fuoco. Bisogna essere pazzi, perché quello che vede è vero, meglio tradotto il fuoco. Ogni riflesso è vano, più caricatore vero, voglia di baci, carezze, di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglio cadere, un'altra occasione. Vado in giro nella notte, mi consumo nel fuoco e poco a poco tutto torna seguito uno scopo. Il mio sangue pompa, sangue di lupo, antropicatore, giovane ricco, come un sopravvissuto, il mio l'avrò, perché spingo su un'idea e il mio cane chiama, come chiama l'inquezzina la moschera, assalti in azione amore, e tu sei ancora nella notte dell'indecisione, arriveremo dove il buio finisci, nessuno capirà quello che ancora ci unisci, lealtà non si ha se non si dà, anche se qualcosa dentro dice che qualcosa fuori non va, adesso non ti spingimi lontano, quello che era sogno diventerà destino, col cane vado in giro a studiare da fare, il modello, l'imprenditore è il rapinatore, è buio nel paese, nell'ordine borghese, signori, con stipendi da 20 milioni al mese, e certo adesso spinge pari di fumo, per le bollette e per immaginare un futuro. Bisogna essere pazzi, quello che vede è vero, meglio tra notte e fuoco vivo. Bisogna essere pazzi, perché quello che vede è vero, meglio tra notte e fuoco. Voglia di presto fare un più caricatore vero, voglia di baci, carezze, di mentirmi questa volta almeno, voglia di un'alba che viene, voglia di avere un'altra occasione, troverò per me sempre più stima. 11.59, siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, Parole Ribelli, siamo in collegamento con Carlo Formenti. Ciao Carlo. Carlo, ci senti? Sì, voi mi sentite? Perfetto, ti sentiamo. Okay. Bene, allora andiamo a discutere un attimo questo libro di ultima uscita, Utopie Letali. È un libro che si inserisce abbastanza a gamba tesa nel dibattito politico attuale, tentando di sparigliare un po' le carte e di riprendere in esame vecchi e nuovi ritornelli movimentisti e o ideologie più o meno in voga. Ecco, a partire, diciamo, l'intento un po' del libro, il suo portato diciamo di rimessa in discussione di certe cose già viene palesato dal titolo, quindi io, Carlo, ti chiederei subito un chiarimento su questo accostamento di Lemmi, Utopie Letali. Sì, questo è un titolo che ha molto colpito, alcuni lo hanno, pur apprezzando il libro, per esempio nel corso di una serie di discussioni, di presentazioni, è stato criticato il titolo, considerato troppo duro, fra virgolette, troppo severo. Io penso invece che la durezza del titolo sia funzionale all'obiettivo che tu anticipavi presentando il senso di questo libro, cioè al suo intento provocatorio, cioè all'obiettivo di riaprire i giochi in una discussione a sinistra che secondo me non da ieri, ma insomma da anni si è come assestata, ossificata su una serie di luoghi comuni. Da un lato è chiaro che le utopie letali a cui ci si riferisce sono propriamente ed esattamente le utopie dei movimenti. Un po' di tutti, perché attenzione, secondo me, pur essendoci delle differenze radicali fra movimenti, come vogliamo definirli, genericamente democratici, di richiesta di allargamento dei diritti civili o di difesa della legalità, tra virgolette, quali sono stati i vari nel corso degli ultimi anni, Girotondi, Popoli Viola, Se non ora quando, eccetera eccetera, da un lato, dall'altro movimenti molto più radicali, molto più orientati, come, non so, il movimento della Val di Susa o le lotte degli operai a Taranto, adesso quelle che conosco meglio perché da qualche anno vivo là, dei salentini contro la TAP, no? Questo gasdotto che vorrebbero costruire e far sbucare sulla costa adriatica salentina, eccetera, hanno comunque alcune caratteristiche in comune, perché da un lato ci sono, come dire, c'è un atteggiamento universalistico, fra virgolette, dei primi, totalmente interno ai principi della democrazia borghese e alla presunta possibilità di rinverdirla, difenderla, sanarla dallo strame che ne è stato fatto dall'attuale sistema dei partiti e dal processo di subordinazione della politica agli interessi del capitale finanziario. Dall'altro invece ci sono obiettivi molto più, se vogliamo, nella radicalità delle forme del movimento ci sono obiettivi più mirati, non so, i comitati per la casa, la difesa di un territorio, la difesa di un bene comune quale l'acqua, eccetera eccetera, e quindi c'è un obiettivo che i sociologi definiscono single issue, cioè riferito a un'unica cosa, che non si propone grandi orizzonti né riformisti né rivoluzionari. Allora, secondo me l'elemento comune, l'elemento più critico all'interno di questo libro è il fatto che tutti questi movimenti hanno in qualche modo abbandonato o mai non l'hanno neanche mai avuto, per in alcuni casi, qualsiasi riferimento al conflitto di classe e qualsiasi velleità di costruire organizzazione politica e di costruire progetti di società alternativa all'esistente. Questo è un tratto comune malgrado si tratti, come dicevo prima, di culture molto diverse, di storie molto diverse, di persone molto diverse, di composizioni di classe molto differenti. Però c'è questo tratto comune che in qualche modo ha trovato legittimazione, e questa secondo me è la più letale, fra virgolette, delle utopie, che è quella che critico con più ferocia, dentro i discorsi del post-operaismo, di Negri e Soci. Io quando aggiungo le Soci so di far sempre incazzare tantissima gente, sia Fumacalli. Sappiamo che per te piace anche. Sì, che ritroverò stasera in Asca. Mi dicono attenzione che la galassia post-operaista è estremamente articolata, e io lo so che è estremamente articolata, e so anche che ci sono, come dire, delle cose buone dal punto di vista sia delle pratiche di lotta sia dal punto di vista delle inchieste operaie condotte sul terreno all'interno di questa galassia. Però anche qui c'è un tratto comune, che è quello in sostanza dell'aver assunto un paradigma teorico, oserei dire filosofico nel caso di Negri, radicalmente postmoderno. Beh, io qua ti faccio una battuta, che comunque sì. Alquati diceva sempre meglio sociologi che filosofi, quindi il paradigma filosofico sono alcuni. Ma sai, questa battuta di Alquati è decisiva, cioè nel senso che, tra l'altro, Alquati, non so se la inventò direttamente lui, però insomma era totalmente in linea nel dire questa cosa con la vecchia polemica fra Raniero Panzieri da un lato e Tronti Negri dall'altro, che allora non si erano ancora litigheranno dopo, ma insomma furono uniti contro Panzieri nella rottura del 64 fra Quaderni Rossi e Classe Operaia. Appunto, a Panzieri veniva rimproverato il fatto di essere, fra virgolette, un sociologo che si sporcava le mani con l'empirismo dell'analisi di come funzionavano l'organizzazione del lavoro e l'evoluzione della cultura operaia quotidiana in fabbrica, la Fiat, mentre Negri e Tronti veleggiavano verso i massimi sistemi metafisici della filosofia politica, poi uno verso il recupero dell'autonomia del politico col passare degli anni, l'altro invece nei suoi svolazzi fino alle invenzioni teoriche della moltitudine, dell'operaio sociale, di quant'altro, insomma. Senti, questo già, diciamo, dalla prefazione, l'orizzonte un po' di senso in cui ci si muove nel libro è molto ben definito da queste quattro tesi che ci sono in apertura. Hai voglia di riportarcele? Sì, sono le quattro parti del libro, sono sostanzialmente, qualcuno mi ha fatto giustamente osservare che è un libro molto, fra virgolette, didattico. Cioè non è un bignami naturalmente della teoria, anzi è piuttosto complesso e articolato, però c'è uno sforzo di grossa sistematizzazione e articolazione della materia in modo da renderla più comprensibile. Questo ha comportato inevitabilmente alcuni limiti, difetti di schematismo, se vogliamo, di drastica semplificazione, però mi è sembrato un passaggio ineludibile per cercare di essere capito. Allora, queste quattro sezioni sono: la prima, che sono i primi due capitoli, è quella sulla crisi economica e sulle trasformazioni del sistema politico, quindi due capitoli, insomma, uno sulla finanziarizzazione dell'economia e l'altro sulla transizione a un sistema compiutamente post-democratico, due cose che secondo me sono strettamente collegate, e la tesi che ne unifica è che il capitalismo è irriformabile, cioè la crisi attuale è irreversibile, non si torna indietro, non si torna ai 30 gloriosi. È un passaggio epocale che ha cambiato radicalmente i rapporti di forza fra le classi sociali, e l'unica cosa di cui si può prendere atto è che dalla crisi si esce non con una ripresa della crescita dell'economia, anche perché questa in qualche modo è già in atto, e vediamo che questo non comporta minimamente né un aumento dell'occupazione né un miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle classi subordinate, ma si esce solo con una rottura sistemica, cioè si esce fuoriuscendo dal capitalismo, il che va subito chiarito, non nasce dall'ingenua fiducia o speranza che questo possa essere un obiettivo, non dico a breve ma neanche a medio termine. Io sono uno di quelli che quando gli dicono il capitalismo è entrato nella sua fase terminale, gli dico sì, ai secoli contati, cioè il capitalismo non cade da solo, ma questa è l'una tesi, la quarta parte, quindi aspettiamo un attimo di andare avanti. La seconda parte è sulla composizione di classe e quindi c'è un tentativo di far vedere come il processo feroce di disarticolazione, frammentazione, individualizzazione che la classe operaia ha subito nei paesi ricchi, o meglio ormai dovremmo dire ex ricchi, visti i livelli di miseria e della quantità di milioni di working poor che esistono ormai in paesi come l'Inghilterra o gli Stati Uniti. Questo processo, dicevo, ha una sua controtendenza, una controtendenza forte, enorme, cioè nei BRICS, nei paesi in via di sviluppo, in Cina, in India, in Brasile, la situazione dell'America Latina è quella che conosco meglio per esserci viaggiato molto negli ultimi anni, esistono dei processi giganteschi di ricomposizione, di riaggregazione di un corpo di classe, il che di per sé non implica minimamente che questo possa, come dire, tradursi facilmente in tempi brevi in coscienza in organizzazione politiche, però se non è condizione sufficiente è a mio avviso condizione necessaria perché si ricomponga una energia, una concentrazione di energie, di forze in grado di opporre una reale resistenza al nuovo tipo di comando capitalistico che si viene organizzando a livello globale. La terza parte riguarda i temi di cui abbiamo parlato fino a poco fa a proposito delle utopie letali, cioè riguarda i movimenti, le loro organizzazioni e tragicamente i loro limiti, insomma, quello che non sono stati capaci o non hanno potuto fare, in molti casi non si tratta neanche di, come dire, abilità soggettive, ma si tratta anche di condizioni oggettive. L'ultimissima parte appunto riguarda quest'ultima cosa che anticipavo, il capitalismo non casca da solo e quindi dobbiamo tornare ad affrontare un tema classicissimo della storia del marxismo e del movimento operaio, che è il tema della transizione a una società post-capitalistica, cioè andare oltre al capitalismo per fare che cosa? Con chi, con che mezzi, con che strumenti organizzativi, con che progetti politici, che società ci prefiguriamo? E qui c'è forse la parte in cui il mio contributo si espone meno, secondo me neanche delle altre parti, però è facile fare questo tipo di attacco strumentale, anche perché io provocatoriamente nel primo interludio recupero un dibattito sulle posizioni di Marx, Lenin, Gramsci, e l'ho fatto apposta, proprio perché voglio andare contro questa sorta di forclusione ideologica e da luogo comune su quelle che sono le linee classiche della cultura politica di sinistra del movimento operaio. Ma qui diciamo mi scosto di più dal classico in modo aperto. Una cosa forte che dico è che secondo me, comunque la si voglia chiamare socialismo, comunismo, come vi pare, la società che verrà, se verrà e quando verrà dopo il capitalismo, non dobbiamo pensarla come una sorta di paradiso in terra. Da Marx, compreso Marx, qui non c'è da fare sconti, in poi c'è sempre stato una sorta di ottimismo antropologico ingenuo sul fatto che l'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, della società mercantile, dell'alienazione, eccetera, sarebbe in grado di per sé di determinare, tra virgolette, un uomo migliore, un uomo... Probabilmente sì, migliore sì, però teniamo conto che proprio se alcune cose abbiamo imparato da alcuni dei movimenti, per esempio dai conflitti di genere, o anche dai conflitti culturali, etnico-culturali, o dai conflitti dell'ambiente, è che esistono altre dimensioni di conflitto strutturale oltre quella economica. Io continuo a pensare che quella economica sia decisiva, non perché è più importante, ma perché è in grado di sovradeterminare le altre peggiorandole, cioè rendendo questi conflitti ancora più acuti, irrisolvibili, intrecciati e distruttivi. Quindi togliere di mezzo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo è una condizione non sufficiente ma necessaria, non tanto ad arrivare a una società senza conflitti, ma ad arrivare a una società in cui i conflitti possano essere gestiti, affrontati e vissuti in modo non distruttivo. Bene, io direi che la carne al fuoco è tantissima e ti risponderei, ci sarebbe tantissimo da dibattere ora, ma purtroppo la puntata ha dei tempi limitati e soprattutto rimandiamo per una discussione approfondita di queste quattro tesi che per esempio già tu proponi molto intrecciate fra loro, anche questo secondo devo dire secondo noi è oggetto di dibattito, quindi credo che l'incontro di stasera avrà tutti i numeri per essere davvero interessante. Ricordiamo al centro sociale a Scatasuna, corso Regina Margherita 47, oggi alle 21, presentazione di Utopie Letali di Carlo Formenti con Gigi Roggero della redazione di Commonware, la redazione di InfoOut di Torino e i compagni e le compagne del centro. Ok, speriamo di divertirci e di litigare proficuamente. Senz'altro Carlo, conoscendoti farai in modo che questo accada e noi lo apprezziamo tantissimo. Grazie mille e a stasera. Ciao. E come ci richiede giustamente qualche ascoltatore che ci ha inviato un sms poco fa, mandiamo un pezzo dei Formenti, giustamente per rimanere in tema. Buon ascolto. Come in fretta, basta tiro dritto in mezzo alla gente distratta, in passato sta nuotando coi denti, ma pieno già crollato i sentimenti e peggio che sono tutti contenti, i replicanti dallo schermo mi sorridono, e cambio che si so che di me non si fidano, questi giorni bastano e hanno già disperso i branchi, almeno forti scarsa, ne sono già partiti in tanti, in questa città che non dorme, camminerò in mezzo alle ombre, seguendo le tue impronte, per arrivare in tempo e darti ciò che è veramente perso, adesso perché presto sarà tardi per spiegarti, i secondi passano veloci, si mangiano i ricordi di cui ti nutri, lasciano i vuoti, siamo specenti, fermata ultima, un altro giorno d'inverno, intorno la mia gente dubita, luci blu come il velluto, tutti giù e un minuto, tanto il filtrato che è stato bevuto, sono giorni in cui vorremmo starci accanto, ma chissà com'è, ognuno è nel suo mondo, nonostante, questi giorni non mi lasciano, non lo sentono il battito, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più, questi giorni non mi lasciano, non lo sentono il battito, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più, vedi che sto bene, l'aria è cambiata in questi giorni, parte la gente si disperde nei dintorni, colle del momento sta spingendo nel traffico del rap, ma il traffico qua sta finendo, posso fare ogni cosa in questi giorni, pochi secondi e te ne accorgi, giorni in cui la pioggia non si ferma, sfida la mia calma e trova la sua nuova arma, meno saggi più tranquilli, un pezzo avanti agli altri, questo è come devi mostrarti, anche se dentro stai morendo puoi fidarti, 30 secondi per capire come posso salvarti, cerco l'aspetto come sempre, ma non aspetto, vado tra la gente, bevo una bevanda di infernanze, i campi della comunicazione, comunicano il senso di soddisfazione tra le persone, parlo, parlo eppure sono il vivo che non cambio, duro come il marmo, come posso stare meglio questo tempo, se meglio questo tempo è solo quello che invento, capisci? Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sento, non il battito, sì, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più, questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sento, non il battito, sì, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più, i giorni passano lenti. 12:20, torniamo subito in diretta perché abbiamo ricevuto poco fa una telefonata qua negli studi di Via Cecchi. Come avevamo già annunciato in apertura questa mattina, c'è stato uno sfratto a sorpresa. Sappiamo che purtroppo insomma questa pratica sta diventando comune per tentare un po' di aggirare la pratica delle resistenze agli sfratti. Adesso appunto siamo riusciti a metterci in collegamento con un compagno che si trova sul posto, che è insieme anche all'inquilino che è stato sfrattato, per cui lasciamo subito la parola per raccontarci un po' che cosa è successo. Ciao, allora, dunque, stamattina c'è stato, come dicevi, questo sfratto a sorpresa verso le 8:40 del mattino in Via Leni. Dunque, gli abitanti di questa casa, che sono una famiglia, quindi una coppia con un figlio molto piccolo, avevano già resistito diverse volte ottenendo delle proroghe. La novità rispetto allo sfratto senza preavviso, che ormai è rodato da un pochino come appunto mezzo per tentare di levare il respiro alla resistenza, agli sfratti, in questo caso è un po' un'anomalia, nel senso che sembrerebbe la seconda volta in cui, anche se non lo si può dire con certezza, forse hanno addirittura, essendo un terzo martedì del mese, le giornate in cui normalmente ci concentrano appunto i picchetti antisfratto, le proroghe e i picchetti antisfratto, potrebbe essere stata una proroga che non viene comunicata all'inquilino. Questo è già successo, a quanto ci risulta, sicuramente una volta, nel senso che invece che sospendere lo sfratto, cosa che molte volte dà poi il tempo per qualche mese, insomma, all'inquilino di rimanere dentro, si dà direttamente una proroga di un mese senza neppure comunicarla, in modo che nessuno riesca in alcun modo a preparare la resistenza. Dunque, in questo caso sono arrivate svariate camionette, due sotto la casa e altre che chiudevano tutti gli accessi di Teleni, questo per tre persone, di cui una è un bambino piccolo, e inoltre il fatto che il giorno prima sembrerebbe che addirittura alcuni solerti agenti della questura di Brera di Milano si siano recati nel palazzo, sti buffoni, fingendosi addetti al controllo dell'acqua per una perdita, per controllare le condizioni della casa. Comunque io ti passo magari il ragazzo che è stato mandato via dalla casa, in modo che vi racconti un po' come se l'è vissuta. Va bene, noi intanto ti ringraziamo per averci chiamato, perché appunto eravamo in attesa di notizie, quindi insomma grazie per sì, la allora, segnalazione. Allora solo un'ultima cosa, sì. Che adesso nella casa occupata di Corso Novara c'è un appuntamento ora a mezzogiorno per eventualmente fare qualcosa di informativo rispetto alla questione, e passo subito la parola. Va bene, grazie, grazie, ciao. Anche a voi. Buongiorno. Ciao, un saluto. Ciao. Certo, oggi a Via Leni che dormo con mia moglie e figlio, che sono venuti in polizia e mi hanno buttato fuori. Adesso non ce l'ho anche dove vado a dormire. Mio bambino è piccolo. Capito? Sì, no, infatti ci raccontava prima che appunto sono arrivati senza nessun preavviso. Preavviso, quindi... sì, sono saliti anche sopra, capito? Certo, questo problema, perché non possono fare queste cose, perché è il padre di famiglia, c'è il bambino piccolo, capito? Se non sbaglio ti hanno impedito di comunicare fino a sfratto avvenuto. Sì. Sì, questo è il problema, perché contro questi bastardi, perché ieri sono venuti e mi dicono che dobbiamo aggiustare l'acqua, e adesso, oggi sono venuti, hai capito? Bene, quindi sì, sappiamo che insomma purtroppo non ormai non si fermano davvero davanti a niente. Ma sì, perché non devono fare così con tutte le persone, con le famiglie, hanno bambini piccoli, hai capito? Perché tutta l'Italia devono fare il bravi con le persone, capito? Non devono fare così. Abbiamo visto recentemente anche lo sfratto di via Roccavione, una proprietà pubblica che è stata sgomberata nel giro di una settimana. Grazie, buongiorno. Ciao, un abbraccio, speriamo insomma che tu presto possa trovare insomma una soluzione tempestiva. Nel frattempo appunto un abbraccio da tutta la radio. Ok, grazie mille, grazie, buongiorno. Ciao. E insomma, queste anche le testimonianze dalla Torino capitale degli sfratti. Rilanciamo l'appuntamento che ci ricordava Michele poco fa, appunto per capire un po' che cosa fare a fronte di quanto accaduto questa mattina. Noi abbiamo ancora alcuni minuti a disposizione, quindi vi lasciamo un pezzo e prepariamo subito l'ultima puntata da Cagliari di cui vi avevamo parlato in apertura di puntata. Questa gente cosa fa? Che oggi già sempre sono qua. Fredda e gelida città. Ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? Che oggi già sempre sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Di noi, dei loro servi, un mondo che fa gara di portarmi giù dai nervi. Qua mi ciò che nervi, ma ne va di tutta la mia integrità. E poi basta con sta scusa di essere pazienti. E pioggia sempre la senti, mi avverti, esci per la strada e ti avverti. Mentre cerco tacere e dispersi, mentre questa pioggia che non smette manda l'aria nei discorsi, come pezzi sparsi in una città che stritola, dove la gente rosica, l'invidia che ti strangola da vita da disgrazi. Stanno tutti quanti accomunati dal destino di fregarsi, come timo tutti pazzi. Il rate è qua e che se la netta te fa i mezzi, invece c'è chi arriva e te se fotte gli spazi. Alla faccia come il culo di indignarsi, se ti incazzi o sblocchi, intanto tira su palazzi a blocchi. Ghiaccio negli occhi e piaccia sempre io sto a cocchi. Troppi tornano corrosi o con i sogni corrotti, da un stato di ipnosi che non sta, e troppo non sta, il conto non va mai in pari. Tra banchieri e palazzi in aria, hai pagato per il sole, t'hanno dato solo temporali. È una sensazione a pelle, di presa per il culo perenne, già pioggia sempre. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Manco una chiave ma l'istinto in me sente la fame, ucciderebbe le persone per il pane. Pioggia sempre, star da soli non conviene. La tessera per fare quello che mi pare, il sangue nelle vene. Il costo della vita scende a zero tra le iene. E cosa mi rimane? Un odio che non colma le lacune. Cammino su una fune d'ogni calcolo, in confusione. Sputo insetticida sul fastidio che si insinua negli orecchi. Il gioco delle distorsioni, degli specchi. Mille ferite, mille occhi, ma zero sbocchi. È un mare in cui te la comandi, solamente dove tocchi. Guai belli grossi, morti e discorsi. Muratura che poi crollano quando ti porti. I primi schiacciano i secondi, ne resto conti. Ed anche se non ce n'hai molti, quel che voglio nei tuoi sorti. Schivo la fortuna con la luna e il sagittario. 12:27, ci avviamo allora verso la conclusione della puntata, un'ultima diretta per questo martedì 18 febbraio. Siamo in collegamento con Daniele del collettivo universitario autonomo di Casteddu, che innanzitutto salutiamo. Ciao Daniele, ci senti? Sì, ciao a tutti e a tutte. Ecco, con te vorremmo un po' farci raccontare della battaglia che state portando avanti a Cagliari rispetto alla situazione del diritto allo studio, una situazione che insomma rispecchia un po' quello che è il quadro nazionale di dismissione appunto delle borse di studio, ma anche di tutti gli altri servizi che ci ruotano attorno. Voi in particolare in queste settimane state lavorando sulla mensa universitaria. Ti chiederei innanzitutto appunto di spiegarci un po' la situazione di questo edificio, insomma che cosa state facendo. Sì, allora partiamo dicendo che la mensa di via Trentino, che è quella per cui ci stiamo muovendo, sorge appunto sotto la casa dello studente ed è ormai chiusa da un anno e mezzo. È stata chiusa principalmente perché volevano farci dei lavori per costruire delle cucine, perché in questa mensa qui veniva portato il cibo già preparato. Quindi è partito nel 2009 il progetto, i lavori sono iniziati nell'estate del 2012 Da allora la mensa rimane chiusa, i lavori sono praticamente conclusi, mancano semplicemente la canna fumare, gli spogliati per il personale e poi mancano tutta una serie di autorizzazioni che dovrebbero rilasciare i vigili del fuoco, la ASL e il comune che ancora mancano. Per questa mensa qui sono stati spesi già 800.000 euro, gli studenti di questi soldi non hanno ancora visto nulla, tanto più che non hanno visto nemmeno ancora la casa dello studente di Via Roma aperta, gli donne non beneficiari ormai dall'anno scorso a quest'anno sono aumentati del 50%. Senti, ma quali motivazioni sono state date da parte dell'ente per il diritto allo studio rispetto a questa situazione? Motivazioni non ce ne sono, infatti l'unica cosa che vengono a dirci tramite la rappresentante è quella che da un mese all'altro dovrebbe riaprire la mensa, questo ormai da alcuni mesi, però non c'è stata ancora nessuna risposta sulla situazione. Senti, voi avete appunto avviato una campagna che si intitola in modo significativo Riprendiamoci la mensa, a fronte appunto di questo totale silenzio e immobilismo da parte dell'ente per il diritto allo studio. Avete già degli appuntamenti lanciati? Quali sono un po' le intenzioni rispetto a questa mobilitazione? Sì, allora noi abbiamo lanciato questa campagna principalmente perché come abbiamo visto, come ho già detto, la rappresentanza non è riuscita a concludere nulla rispetto a questo tema, se non venirci a riportare appunto le dichiarazioni dell'ERSU, che però non sono soddisfacenti. Quindi domani noi abbiamo convocato un'assemblea all'università alle 5 per appunto cercare di affrontare con gli altri studenti il tema, e quindi per poi costruire appunto una lotta dal basso per riprenderci la mensa. Riprenderci la mensa appunto per non lasciare che riapra da sola chissà quando, ma auto-organizzarci noi per riuscire a sopperire alle mancanze dell'ERSU. Sì, soprattutto appunto come dicevi tu, non stare ad aspettare, ma provare non solo appunto ad andare a sostituirsi all'ente per il diritto allo studio, che evidentemente insomma non è un obiettivo alto, ma piuttosto provare a immaginare proprio anche dei modi diversi di gestire queste situazioni. Ce ne sono insomma tante esperienze in giro per l'Italia che però appunto non vadano solo a sostituirsi a quello che dovrebbe essere un compito dell'ente per il diritto allo studio, ma a provare ad auto-organizzarsi in modo differente all'interno di questi spazi. Sì, esatto, tanto è vero che il presidente dell'ERSU è cambiato poche settimane fa ed è stata una nomina prettamente politica, dato che è di Comunione Liberazione ed è stato messo appunto poco prima delle elezioni regionali. A noi questo non ci interessa, non ci ferma, nel senso che non andremo da lui a chiedere, a elemosinare le briciole, a pretendere che ci riapra la mensa, ma saremo noi studenti che ci batteremo in prima persona e andremo proprio a riprendercela. Va bene, Daniele, noi ti ringraziamo, ti mandiamo un in bocca al lupo per questa vostra battaglia, aspettiamo nelle prossime settimane aggiornamenti positivi anche da Cagliari allora. Sì, ci sentiamo per le prossime settimane. Va bene, un saluto, buona giornata. Altrettanto. Bene, andiamo in conclusione di puntata, vi lasciamo ancora con un po' di musica. Non so dove vado e se precipito comunque me la cavo. Pioggia sempre, io vado correndo, rotolando come un dado, cercando di salvarmi a starmi sopra il risultato. La fine della pioggia nel cuore avvelenato. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. adesso è solo pioggia e sempre, dal cielo sulla mia pelle, perle, gemme, come lacrime da una città che giorno dopo giorno sanguina. Ma adesso è solo pioggia e sempre, dal cielo sulla mia pelle, perle, gemme, come lacrime da una città che giorno dopo giorno sanguina. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre sono qua, fritta e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre sono qua, fritta e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Andiamo a ricordare qualche appuntamento a partire da questa sera col consueto appuntamento della cena Benefit Radio Blackout all'asilo di Via Alessandria, quindi non mancate. Ricordiamo nuovamente in contemporanea l'appuntamento di stasera al Centro Sociale a Scatasuna, la presentazione di Utopie Letali con Carlo Formenti. Per quanto riguarda invece la giornata di domani a Venaria, un appuntamento NOTAV dal titolo TAV a che punto siamo, appuntamento a partire dalle 20.45 presso il centro La Igola, in via Amati 124, interverranno Luca Giunti, tecnico esperto della comunità montana, l'avvocato della Valle di Susa D'Amico. Organizzato il tutto dal comitato NOTAV di Venaria assieme ad altri comitati NOTAV delle Valli di Lanzo e di Torino e Cintura. Sempre il 19 all'asilo occupato in via Alessandria 12 parte il ciclo di proiezioni Le norme sociali ed il quieto vivere, fuori, dentro, contro. Alle ore 20 aperitivo benefit per gli arrestati NOTAV, alle ore 21 proiezione del film Il vento fa il suo giro. Arriviamo a giovedì 20, ricordiamo un appuntamento al Centro Sociale Gabrio di Via Miglio 42 sulla questione dei distacchi, un incontro e dibattito con i compagni greci del Movimento 136 per l'acqua pubblica di Salonicco, appuntamento dalle 19.30 per una pericena, a seguire dalle 21 il dibattito. Life hasn't been very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and if I do, I'll be everything I am. Andiamo in chiusura di un'altra puntata di Parole Libelli, che tornerà con voi come ogni martedì mattina a dare aggiornamenti e controinformazione dal mondo della formazione universitaria e oltre. E in questa giornata, che anche se non è di sole, comunque può essere ritenuta abbastanza allegra perché gli studi della radio qui sono ben animati, vi diamo un saluto e vi lasciamo al GR. Un saluto da Eddie. E un saluto anche da Francesca. Rimanete sintonizzati sui 105.250. Buon ascolto.